Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Eravamo in 950, con noi anche 200 donne e 50 bambini. A rilasciare nuovi drammatici dati sotto shock ai magistrati è un 33enne del Bangladesh scampato alla tragedia del mare. Le prime testimonianze dei 28 superstiti del barcone carico di migranti rovesciatosi due notti fa a poche miglia dalle coste libiche rendono le dimensioni della tragedia. Il bilancio, secondo quanto ha raccontato, non si limiterebbe alle 700 vittime annunciate ieri, ma ad un numero maggiore. Molti erano chiusi nella stiva, ha spiegato il superstite, rimasti intrappolati e finiti in fondo al Mediterraneo, mentre il barcone, che non avrebbe potuto trasportare più di una sessantina di persone, si ribaltava per lo spostamento dei migranti alla vista del mercantile portoghese King Jacob, con il quale non c'è stato alcun contatto. Smentite le prime voci di collisione. I soccorritori hanno battuto ieri la zona di mare della tragedia, ma i corpi al momento sono intrappolati in quel barcone. La Gregoretti, la nave... Non ho nemmeno annunciato quello che farò, che vorrò dire in questa puntata, è bastato l'annuncio fatto dai colleghi del giornale radio, che già sono arrivati i primi messaggi. Non voglio sminuire la drammaticità dell'evento, ma temo che in un anno nel mondo siano molti di più i morti per fame e per malattie. Alberto. Per Nicoletti, cosa siamo andati a fare in Libia? C'era Gheddafi che ci ricattava, ora non c'è più, abbiamo lasciato la Libia nel caos, gli sbagli si pagano cari. Ecco, di questi messaggi potrebbero arrivarne tanti, e potrebbero tanti chiamare all'800240024. Potremmo iniziare anche noi un dibattito con degli esperti per capire il perché, per come e per quando 700, cioè in un range che va da 700 a 950 esseri umani sono morti affondati, annegati in un tratto di mare, di acque internazionali, molto vicino al nostro paese. Di chi è la colpa? La colpa è di Alfano, la colpa è di Renzi, la colpa è di Salvini, la colpa è della Santanchè, la colpa è di tutte le persone che stanno dichiarando su questa immane tragedia. Già il termine immane tragedia è un termine che mi fa senso, mi fa pensare. Oggi voglio fare un'altra cosa e già vi posso annunciare che Simone Spezia, a effetto giorno, al fine di questa trasmissione, avrà degli esperti. Avrà personaggi che comunque di questo parleranno, vi daranno dati, vi daranno certezze, si vedranno gli scenari. Domani anche io avrò degli esperti. In base a quello che voi mi direte in questa puntata, chiamando all'800240024, immediatamente a seguire chiamerò delle persone e porrò delle domande. Avremo delle risposte certe, non certe, c'è certezza in questa vicenda? Ma quello che voglio fare questa mattina è farvi riflettere sul fatto che sono morte centinaia di persone in pochi istanti, in pochi minuti, nell'arco probabilmente di un'ora, a 4 metri da casa nostra praticamente. Potevano essere morti in un altro posto, potevano essere morti a casa loro, nessuno se ne sarebbe accorto e nessuno si sarebbe commosso. Voglio richiamare l'attenzione sul fatto che ci sono centinaia di persone che adesso stanno sott'acqua, morte, affogate, sono cadaveri. Sono persone che riverranno a galla, sono persone che voi incontrerete probabilmente durante le vostre vacanze, vedrete affiorare probabilmente quando sarete con i bambini in spiaggia, vedrete sicuramente quando andrete a fare escursioni sott'acqua, se siete comunque dei sub. Questo è la riflessione che mi ha fatto fare ieri un'anziana signora leccese. Dice: sono donna di mare, quanti pescatori tireranno su con le reti i cadaveri? Dice, ti rendi conto cosa sono? 900 morti nello stesso punto, tutti che rivengono a galla. E per farvi riflettere sul fatto che sono morte 900 persone, ve lo ricorderò in questa maniera. Nel corso della mia trasmissione, che durerà più o meno altri 15, 16, 17 minuti, ogni secondo vi manderò un segnale e questi segnali equivarranno alla fine della trasmissione di tutte le persone che sono morte, per farvi pensare, ricordare, ponderare cosa significa 900 morti tutti assieme. Ogni secondo un rumore. Sentitelo anche più forte sotto di me, non mi dà fastidio. Voglio che voi pensiate che ognuno di questi click è una persona affogata. Può essere un uomo, un giovane uomo, un uomo anziano, può essere una donna, può essere un bambino. Voi direte, ma che ci importa? Quando arrivano sono brutti, sono sporchi, sono neri, invadono la nostra terra, se ne stessero a casa loro. Molti hanno detto, affondiamo le navi prima che partano. Leggo titoli di giornale oggi. 700 morti di buonismo. Li ha ammazzati il buonismo? Sentite, questo click, ognuno è un morto di buonismo. Oppure, al contrario, ho letto il titolo del giornale, il titolo del Fatto Quotidiano. Mar morto, Alfano ministro dannoso. L'ammazzati Alfano? Non lo so, non voglio dirlo, non voglio ipotizzarlo, so solo che sono morti. Voglio riflettere al fatto che 900 persone sono morte, qua vicino, è come se fossero sotto casa mia, è come se io improvvisamente mi sentissi attraversato da un pezzo di storia imponderabile, della quale in questo momento non ho strumenti per elaborarla, per comprenderla, per farla capire. Io voglio solo riflettere sul fatto che ognuno di questi click è una persona che adesso è sott'acqua, una persona che ha visto avvicinarsi un peschereccio, il King Jacob, ha pensato che fosse la salvezza, si è sporta in quel barcone in cui era stipato insieme a altre centinaia di suoi amici, è affondato, è andato sott'acqua. Ne hanno salvati se no una trentina scarsa, è già un grandissimo risultato. E gli altri? Gli altri sono sott'acqua, gli altri sono morti, gli altri arriveranno a galla. 800240024. Massimo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, Nicoletti. Lei è in gamba perché parla chiaro, semplice, cioè, vada al punto adesso, non è il momento, vedi il tempo come incombe. Mi scusi, anche io sono del parere che bisognerebbe fare qualcosa lì anziché fare venire qua. Lei dà una risposta quindi tecnica, politica, ma lei non riflette sul fatto che sono tanti morti vicini? Non le dà un attimo di riflessione? Quando ci muore una persona, un amico, una persona lontana, anche uno che conosciamo, ci stracciamo le vesti, ci dispiace, riusciamo a essere indifferenti per un concentrato così potente di morti? Sente questo tic? Sì. Ognuno di questi è uno morto, ci sta pensando? Dobbiamo intervenire là, andare lì, aiutare là. Va bene, ok, capito Massimo. Alessandro, buongiorno. Alessandro, sono io di Bologna? Sì. Ah, buongiorno Nicoletti. Io volevo, a parte, lasciamo stare Alfano che ha tutte le sue responsabilità. Le posso dire? No, scusa Alessandro, in partenza. Intanto dico di chiamare all'800240024. Chi ha capito il senso di questa trasmissione, vuole partecipare, dare un suo contributo. Le dico, Alessandro, poi parliamo, se vuole, da qui alla fine della trasmissione, può dire quello che vuole naturalmente chiunque. Sì. Poi avrete gli esperti, avrete le persone che faranno il quadro politico, economico, sociologico e concreto su quello che è stato fatto, non è stato fatto. Abbiamo sbagliato a interrompere Mare Nostrum, è colpa di chi ha interrotto Mare Nostrum. Abbiamo fatto operazioni che non servono, abbiamo voluto risparmiare, siamo stati spietati, siamo stati buonisti, quello che vuole. Rifletta sul fatto che ognuno di questi tic è una persona morta nell'arco dello stesso tempo, nell'arco dello stesso luogo. E cosa gli viene da pensare? No, mi viene a pensare, dicevo, lasciamo stare Alfano, che dalla sala Baieva che non poteva non sapere o a sua insaputa l'hanno portata via. Comunque parliamo di questi morti nello stretto di Sicilia. Ecco, sono da imputare esclusivamente alla scarsa politica che abbiamo sia in Italia che in Europa, perché seguendo Sarkozy, i politici italiani... Alessandro, scusi, presidente... No Alessandro, non le voglio, voglio interrompere. In questo momento me ne sbatto sinceramente, ma proprio no, tanto... Capito, però parte tutto da lì. Sì, ma se lei le muore una persona cara, dice è colpa del dottore che l'ha curata male, è colpa della società che l'ha fatta morire, sì. Oppure pensa un attimo pensa quella persona nel suo attimo estremo che è stato di lei prima. Ogni persona che le sente legata a un click della mia trasmissione, che è un timer inesorabile, il timer della morte, è quello che dà il segno delle persone morte. Una persona che è nata, ha avuto una famiglia, ha avuto una madre che l'aspettava, ha avuto dei parenti che hanno gioito quando è nata, una persona che comunque in qualche maniera, chi ha avuto tempo, è cresciuto, ha avuto una vita, ha avuto esperienze, ha avuto una situazione talmente tragica da andare verso un destino che comunque sia, anche se in certo, anche se disperato, anche se invadeva il nostro paese, era meglio che essere massacrato nel posto in cui stava o morire lì di fame. Ecco, questo non le fa venire nessun altro pensiero che pensare a Alfano, alla no, Sant'Anchè a Renzi? Sì, mi fa venire il pensiero che comunque se non portiamo che l'ISIS sta conquistando la Libia e sta provocando questo massacro, allora non parliamo di nulla. Andiamo a vedere a monte dove è stato il problema dei nostri politici a partire da Napolitano che hanno dichiarato guerra a Gheddafi senza pensare va bene, al dopo Gheddafi. È chiaro Alessandro, non voglio sembrare che faccio il censore, voglio portare il pubblico, se ci riesco, su il livello di riflessione voglio portare io. Quando vi muore una persona, date la colpa al governo, date la colpa alla politica, cercate i colpevoli o per un attimo riflettete sul vuoto che fa questa persona. Perché guardate che è molto più facile che io susciti commozione se dico hanno trovato uno scatolone con dei gattini affogati, avrei catene di solidarietà. Perché abbiamo perso il senso della pietas per le persone che muoiono in maniera così improvvisa, in maniera così condensata e soprattutto quando ci muoiono sotto gli occhi? Quelle che muoiono lontano è come la famosa commedia del mandarino cinese. E se tu pigi un pulsante e muore un mandarino in Cina, baratteresti questo con un'immensa fortuna, ma il mandarino non lo vedo, pigio il pulsante. Qua i mandarini, gli cinesi, gli strani, li vedete, perché rivengono tutti a galla. Simonetta. Sì, buongiorno. Io volevo esprimere la mia solidarietà per queste persone, al di là delle colpe che ci possono essere, a questo punto non credo che interessi. Sono persone come noi, come ha detto il Papa, e soprattutto persone che ti regalano un sorriso. Io ho un amico, diciamo, che vende queste cose, piccole cose, davanti a un supermercato. Ecco, lui è sempre sorridente. Ecco, sono persone che, pur avendo tanta sofferenza e morte vicino, però ti danno anche un sorriso. Ecco, io mi auguro che anche noi si possa regalare un sorriso al di là dei nostri discorsi. Cosa le fa pensare, Simonetta? Stiamo un attimo in silenzio, un attimo. Sì. Ognuno di questi rumori è una persona morta. Cosa le fa pensare questo? Mi fa pensare che noi siamo tanto fortunati rispetto a loro e il tempo per noi forse non conta più. Bisognerebbe cominciare veramente a contare i minuti e i secondi per poter stare anche un po' in silenzio. Si parla troppo, forse bisognerebbe stare più zitti ascoltando. Paolo, buongiorno. Buongiorno, forse non rispondo esattamente alla sua domanda. E no, invece le rispondo alla domanda, perché ho poco tempo. E il tempo, come sento, incombe. Però vorrei solo dire che per me ci sono due modi di procedere perché queste cose non succedano più. E solidarietà per queste persone è fare in modo che non ce ne siano altre. Cioè, io mi commuovo e mi commuovo tanto, ma io vorrei che non succedesse più. E ci sono i due estremi per non farlo succedere. Far venire tutti, come dice Martin Sans Frontier, cioè far venire le persone col visto, con l'aereo, senza rischi, e poi dopo assorbirle, accoglierle, oppure bloccare, blocco navale. È questa via di mezzo tremenda che sottopone chi fa il viaggio della speranza a una vera e propria ordalia che si conclude con un'ordalia per annegamento. Cioè proprio è una nemesi terrificante. Questi qui, se vogliono venire, devono rischiare quella cosa tremenda. Allora poi li accogliamo. No, o li accogliamo prima, oppure gli diciamo no, non venite, basta. Dice cose sensate, Paolo, non ho voluto interromperlo. Mi interromperò con questo timer che ricorda semplicemente quante persone sono morte. Voi direte ne muoiono tante nel mondo, di fame, di stenti, di omicidio, di sofferenze, di malattie, verissimo. Ma queste sono morte tutte assieme. E soprattutto era una morte che tutti avevano in qualche maniera prefigurato, lo dicevano da settimane. Vedrete, arriverà in primavera un grande flusso, morirà tanta gente. Eccoli, li sentite uno dopo l'altro. Li sentite per un secondo e poi mandiamo le informazioni del traffico. Melog. Cronache meridiane. Potete dirmi tutto meno che io sia un buonista. Non sono buonista. Sto solo riflettendo sul senso della vita e sul senso della morte. Quando la morte colpisce vicino, repentina, feroce, rapace, 900 persone tutte assieme, possono essere 750, possono essere, come qualcuno dice, impossibile che in un barcone 30 metri ci stiano quasi 1000 persone. Può essere che sia impossibile, spero che domani c'è una notizia che siano meno. Al momento la notizia comunque è che ci siano una tonnellata di cadaveri che galleggeranno in quel tratto di acqua. Qualcuno mi corregge, non sono acque internazionali, sono acque libiche. Vi cambia qualcosa? Fossero anche acque libiche o acque internazionali. Nessuno pone l'attenzione sul fatto se hanno morte tante persone, perché è un momento importante. È un passaggio della storia che stiamo vivendo, non possiamo non viverlo consapevolmente. Questo è il mio senso. Io sono profondamente colpito. Non dico commosso, non voglio fare l'ipocrita. La mia vita continuerà esattamente come la vostra alla fine di questa trasmissione. Non è che mi cambierà radicalmente la vita, ma voglio dedicare una riflessione a questo. Sentite questo rumore in sottofondo? Fastidioso? Ognuno di questi tic è una persona che è morta. È iniziato questo timer all'inizio della trasmissione, terminerà alla fine della trasmissione. Sono 17-18 minuti. Ogni secondo vi faccio sentire il rumore di una persona che muore. Una persona ha trovato i polmoni pieni d'acqua all'improvviso, la maggior parte non sa nemmeno nuotare, perché non sanno nuotare. Quindi si è vista morire, ha visto a poca distanza morire magari la moglie, i figli, le altre persone. Andare giù, andare a fondo, andare a picco, affogare. E qual è il risultato? Il risultato è qualche settimana fa centinaia di donne sequestrate da Boko Haram sono state stuprate e ammazzate. Come mai non abbiamo sentito tic tac? Buongiorno, tante cose difficili, ma lei è soltanto un omicidio dei buonisti che si riempono la bocca. Hai rotto, siamo 6 miliardi. Quanti morti mia madre e mio padre? Nessuno che ne ha parlato alla radio. 368 morti al largo di Lampedusa, è cambiato qualcosa da loro? Io non mi sento in colpa. Cos'è sta condanna a tutti indistintamente? Ma io mi sento in colpa come si sente in colpa ogni essere umano quando accadono cose del genere, nella sua percentuale, senza sensi di colpa che ci lacerano, ma mi sento anch'io, sì, io mi sento un po' in colpa. Nicoletti, sii preciso, il barcone affondato in acque libiche, sono preciso, sono morti di meno? Non lo so. Nicoletti, ma di questi morti vuoi dare la responsabilità al popolo italiano? Dice Luigino. No, assolutamente, però il popolo italiano rifletta un attimo, perché io se avessi parlato questa mattina, ripeto, di una strage, di poveri cagnolini abbandonati, di cavie in un laboratorio, di poveri gattini, avrei avuto un maggior senso di partecipazione. 900 morti, non gliene sbatte niente a nessuno. Bisogna accogliere gli immigrati con i cannoni e le mitragliatrici, dice Paolo. Quest'estate nei bagni al mare tantomeno non si potrà mangiare pesce. Io porterò i miei figli in montagna per non vedere i cadaveri che vengono a galla. Mirella, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senta, il mio più è un suggerimento. Tutti i gestori telefonici dovrebbero lanciare un messaggio, gratis naturalmente, perché queste persone arrivano, hanno tutto il cellulare e chiamano al loro paese, vuol dire che un contatto ce l'hanno, avvisando quotidianamente come un bollettino di guerra purtroppo i morti che ci sono, perché questi partono, neanche lo sanno quando arrivano. Io penso una cosa, Mirella, penso che comunque questi sanno che devono morire. E come lei, se sta in una casa incendiata, sta anche al sesto piano, per disperazione si butta alla finestra, ha più percentuali di sopravvivere rispetto alla morte certa nelle fiamme. Se questi partono, non credo che lo facciano perché pensino che sia una passeggiata, perché ormai le immagini girano tutto il mondo, chi ha un telefonino comunque ha visione. Vera, buongiorno. Buongiorno a lei. Le voglio dire una cosa, io sto ascoltando quel ticchettio e a ogni ticchettio è un moto nell'anima di dolore e non sono una che si emoziona tanto. Ma nemmeno io sono un cinico, ecco, di natura. È questo il discorso che bisogna fare, cioè io penso questo, c'è ormai una anestesia della coscienza, un'anestesia della capacità di provare empatia e pietà. Probabilmente molti hanno dei bisnonni che sono andati con i barconi in Argentina o in America tanto tempo fa, no? Ma mi sconvolge l'odio e l'indifferenza, la violenza verbale che si manifesta anche durante questa trasmissione. Cioè, non è possibile essere così amorali. Dunque mi dice un ascoltatore che dal senso dice: Nicoletti, sa che da qualche minuto il click non si sente più, forse lo stesso vale per le sventure lontane o vicine, ci sei già a suoi fatti al click, non è che non si senta, eccolo, è ben presente, ma dopo un po' fa parte del basso continuo, del sottofondo della nostra vita, ma anche normale, naturale che sia questo. Ma oggi è un momento particolare e voglio ricordare che ogni click è un morto in fondo al mare. Domenico. Buongiorno Nicoletti. Io volevo esprimere il cordoglio e soprattutto la vicinanza a tutti gli operatori marittimi, perché abbiamo vissuto, sono un marinaio, esperienze terrificanti in quei giorni che abbiamo prestato servizio. Lei ha operato in situazioni come questa? Esatto, da civile. Ecco, vuole spiegare mentre mandiamo gli ultimi click